Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Appuntamento con l'Adico di Mestre, con noi al telefono Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, salutare gli ascoltatori. Allora, si parla molto di banche e credo che dovremmo parlarne ancora per moltissimo, ma iniziamo un attimo a snocciolare un po' di cose che state prendendo in mano come Adico. Sì Francesco, è stata un'annata particolare, abbiamo lavorato molto noi come Adico sul fronte banche e hanno lavorato anche tante altre realtà qua in Veneto, perché al di là dei grandi problemi che in realtà esistono per tante grandi banche, vediamo adesso ad esempio il mondo dei Paschi, noi abbiamo due banche, cioè Veneto Banca e Popolare di Vicenza, che hanno fatto un po' impazzire i propri risparmiatori, che sono diciamo quasi al 100% veneti e ai quali ci sentiamo molto vicini, perché nell'arco di quest'anno, mettendo a disposizione il nostro ufficio legale, stiamo seguendo un centinaio di casi, forse anche qualcuno in più, e ne abbiamo sentite di cotte e di crude, ne abbiamo anche già raccontate grazie alla tua trasmissione, però insomma adesso arriviamo un po' al dunque, cioè dopo un anno in cui abbiamo tentato di trovare delle mediazioni, quindi di trovare delle soluzioni conciliative con entrambe le banche, insomma ci siamo resi conto che non c'è una grande volontà di dialogo, per quanto magari di facciata le promesse non manchino. Abbiamo provato per quasi tutti i soci ad ottenere una mediazione con Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Pensa, abbiamo fatto anche qualche incontro con appunto i funzionari della banca, però non sono neanche venuti fisicamente agli incontri, ma abbiamo fatto alcune dirette streaming, sì. Ecco, tramite Skype, per cui insomma non abbiamo neanche visti fisicamente in faccia. Ora quindi ci troviamo come Adico ad essere partiti con una decina di cause, quindi passiamo diciamo ai metodi forti, certo magari le tempistiche di definizione saranno più lunghe di quelle che potevano esserci con una mediazione, però insomma a questo punto è il caso di agire. Quindi noi siamo partiti con appunto 10 cause su un centinaio di casi e questi giorni abbiamo iniziato a discutere, quindi noi speriamo poi di ottenere giustizia. Perché abbiamo insomma anche fatto una piccola statistica, oltre ad aver raccolto storie incredibili di persone che per esempio hanno dovuto sottoscrivere le azioni in cambio di un mutuo più agevolato, tanto per dirne una, ma perché sono i casi più scandalosi, ma ne abbiamo tanti, dobbiamo dire che per quanto ci riguarda insomma abbiamo praticamente il 100% di chi si rivolta a noi è che diventa più di 50-55 anni, sì. Per la maggior parte stiamo parlando quasi tutti di pensionati. Le cifre che sono in gioco possono andare da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 450.000 euro, che chiaramente è il caso più importante che stiamo seguendo, ovviamente è una situazione per la quale si è andati in causa. Per quanto riguarda invece gli investimenti proprio delle 10 persone che sono appunto attualmente in causa, variano dai 74.000 euro ai appunto ai 450.000 euro del caso limite, del caso estremo, che stiamo seguendo con molta attenzione, perché Francesco, qua non stiamo parlando di persone avventate, ma di persone che, come è usanza degli italiani e dei veneti, hanno trovato nelle azioni di due banche del territorio di cui si fidavano un modo di investire che a loro sembrava sicuro, perché effettivamente era stato presentato come tale. Siccome sappiamo benissimo queste azioni sono deprezzate del 90, anche del 90%, queste persone quindi si trovano con in mano un pugno di mosche e nulla al confronto dell'investimento su cui avevano puntato, ecco, ci troviamo di fronte a situazioni assolutamente estreme, quindi certo. Di disagio totale. Quindi terremo informati gli amici di Blu Radio Veneto su come l'Adico si muove con queste cose e quali saranno poi anche i risultati. E credo ci vorrà molto tempo. Ci vorrà molto tempo, però, certo per i 3 gradi di giudizio, però ecco, noi ci basiamo sul fatto di vedere intanto come vanno anche i primi esiti, le prime sentenze. E noi, come diciamo gran parte delle persone che stanno seguendo queste situazioni appunto che abbiamo detto al limite, siamo delusi, ecco, mi sembra la parola giusta, siamo delusi dal comportamento di queste banche, perché sono le banche del territorio, Francesco, sono le banche nelle quali i funzionari conoscevano il nome delle persone, dei propri clienti, quindi anche quando hanno fatto sottoscrivere queste azioni, magari forse non con grande coscienza della situazione, questi funzionari hanno portato persone anziane che conoscevano bene e gli hanno suggerito appunto queste forme di investimento che si sono rivelate rischiose e fallimentari. Noi speriamo veramente che soprattutto le banche del territorio siano vicine veramente ai cittadini, ai risparmiatori, ai contribuenti. Ecco, devo dire che conosco anche alcuni dipendenti di queste banche che avevano fatto investire anche i propri genitori, quindi forse gli stessi dipendenti non erano consapevoli dell'eventuale difficoltà in cui le loro banche vivevano. Questo è quanto, grazie, torneremo a parlarne, grazie all'Adico, ricordo il sito associazionedifesaconsumatori.it. Caro Gianluca, ci risentiamo presto. Grazie a te Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.